9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno caro ascoltatore, buon primo settembre. Primo settembre che segna il mio ingresso alla mezza età, 50 anni, vabbè. Ma non è questo il dato importante di questo primo settembre, bensì il fatto di rappresentare un nuovo passo in questa danza che diventa sempre più preoccupante, perché è una danza fatta di piroette e di scivolate, di casquet e soprattutto di ritmo sempre più affannoso da parte del danzatore. Il danzatore è il governo e in realtà a ballare siamo tutti noi, perché è la danza della contabilità pubblica italiana. E da luglio, dalla prima manovra, e poi da agosto con la manovra bis, che siamo entrati in una fase di accelerazione della crisi di credibilità dell'Italia sui mercati, e purtroppo fino a questo momento non ne hanno azzeccata una, nel senso che abbiamo appena fatto in tempo ieri a finire la trasmissione dedicata al tema delicato e che stava esplodendo, quello delle norme indicate nel vertice tra Bossi, Berlusconi e Tremonti sul mancato riscatto delle lauree, specializzazioni ed anni di militare per il computo degli anni di lavoro da prestare come tetto minimo per il diritto al trattamento previdenziale di anzianità, che appunto abbiamo avuto la comunicazione che la norma era perenta, era esplosa, era ritirata, ed era abbastanza evidente, visto che abbiamo spiegato il motivo per cui la norma era, almeno per come era stata annunciata, difficilmente in grado di superare un esame di costituzionalità, e che soprattutto accendeva una protesta diffusissima e più che fondata da parte di milioni di italiani, come allo stesso modo faceva il contributo di solidarietà cosiddetto, cioè l'aumento dell'aliquota marginale IRPEF sui redditi, che per settimane aveva fatto ballare il governo innanzitutto da parte di molti osservatori e di molti lettori della stessa area politica del governo, e che era stato ritirato nel vertice di maggioranza che aveva invece toccato le pensioni in questa maniera che non è risolta. Il risultato è che ieri pomeriggio era il termine per la presentazione dell'emendamento da parte del governo alla manovra in Senato. Il termine è stato protratto oggi, c'è un Consiglio dei Ministri anche in arrivo. A oggi trovate sui giornali molte ipotesi su come il governo, come immediatamente abbiamo scritto, appreso che saltava questo criterio, deve fronteggiare i 4, 5, 6 miliardi di euro che mancano per i suoi saldi. Trovate diverse ipotesi, nessuna ben indicata con precisione, quindi non sappiamo ancora quale sarà la risposta vera del governo, perché quello che si capisce dal combinato disposto di tutte le fonti giornalistiche è che il Presidente del Consiglio da una parte dice di avere un'autorizzazione politica all'interno della maggioranza, quindi anche da parte della Lega, all'eventuale aumento dell'IVA di un punto, addirittura anche di due, se fosse necessario, dove se fosse necessario significa se l'Europa non considera i saldi della manovra sufficientemente garantiti. Però pare di capire che l'aumento dell'IVA non viene messo in decreto, il governo si riserva di farlo con un atto a parte, mentre invece la vera risposta al venir meno sia del contributo di solidarietà sia della prima possibilità di toccare le pensioni di anzianità, ma non facendolo con la cosa più ovvia, cioè alzare i tetti in maniera temporale più rapida per arrivare alla convergenza con il tetto per le pensioni di vecchiaia e possibilmente anche aumentando quest'ultimo a 67 anni, no. Il modo in cui si farebbe fronte al venir meno di questi cespiti sarebbe quello di adottare nel decreto una complessa strategia, tutta sul fronte delle entrate, del consolidamento, dell'intensificazione della lotta all'evasione fiscale. Di qui ciò che trovate oggi sui giornali. Un approccio, ne chiederemo ai nostri ospiti, sul quale io mi limito a osservare delle evidenti contraddizioni iniziali. Non do più giudizi se non di fronte ai testi, come è evidente, visto che anche il governo non riesce a produrre testi in grado di difenderli poi per qualche ora successiva. Ma se da una parte si legge che l'approccio è quello a una specie di mega concordato pluriennale, contribuente per contribuente, in cui l'amministrazione tributaria, sulla base magari di incongruenze tra patrimonio e dichiarazione dei redditi, propone una pianificazione fiscale pluriennale penale in base alla quale poi rinuncerà a successive contestazioni in nome della certezza del gettito. Questa è una strada friendly e amichevole, ma è la strada di uno Stato assetato di risorse e che quindi mega a un meccanismo per adesione che non è un condono di massa, ma è una pianificazione amichevole. Dall'altra parte si legge invece che a questo poi si affiancherebbero manette agli evasori, pubblicazioni sui quattro cantoni di ogni comune delle liste individuali dei contribuenti con la cifra di reddito. Abbiamo la gara di grandi giornali sedicenti liberali che dicono che bisogna abolire l'anonimato fiscale, deve finire, scrive Massimo Mucchetti sul Corriere della Sera. Abbiamo appena fatto una trasmissione prima di questa con il dottor Tinti, Bruno Tinti, stimato pubblico, ex pubblico ministero, che naturalmente rideva di fronte alla mia tesi secondo la quale il primo ladro è lo Stato, visto che da 815 miliardi di spesa pubblica va a 890 miliardi in tre anni, e che tutto questo mi sembra serva meglio a dividere gli italiani e a far loro dimenticare che così facendo e sempre invitandoci alla delazione gli uni contro gli altri è una guerra dei poveri, perché tutti abbiamo in testa che magari quello a fianco a me c'ha la macchina più potente che non mi posso permettere, e dimentichiamo tutti più facilmente in realtà che così i politici pro tempore, lo Stato sono loro, non siamo noi, per me lo Stato sono solo i politici pro tempore, riescono meglio a mascherare il fatto che incisioni vere nella spesa corrente non riescono a farle perché costano consensi, dismissioni patrimoniali vere per fare la parte patrimoniale dell'abbattimento del debito non le vogliono fare, non riescono a fare nel patrimonio immobiliare, nelle aziende detenute a livello centrale e locale, nell'enorme patrimonio immobiliare che resta pubblico. E così il primo ladro per me è lo Stato, e continuerò a pensarlo, contabilità pubblica ed efficienza comparata alla mano. Però tutti quanti ci convincono, compreso il governo di centrodestra che da 17 anni diceva che il suo obiettivo è la riduzione del perimetro, l'aumento dell'efficienza pubblica, ci convincono invece che poi la guerra tra di noi è la vera faccenda, perché siamo, è colpa nostra se le condizioni sono così, ed è colpa naturalmente dei dannati evasori fiscali, di coloro che se pagassero le tasse a gennaio diminuirebbero, quando questo è un falso, perché se tutti le pagassero lo Stato incamererebbe tutto senza ridarmi niente. E naturalmente questo non significa che io li voglio difendere, ma significa che ci deve essere una priorità. La priorità è, l'Europa ci chiede in maniera pressante di diminuire spesa e debito patrimoniale. La risposta mi pare di capire che ancora una volta, dopo averne provate tante, non esserne riuscita a imboccare una sola di riduzione strutturale per punti di PIL ogni anno di spesa corrente e di abbattimento patrimoniale attraverso dismissione del debito pubblico, ancora una volta anche per il centrodestra, dopo tanti balbetti e autoribaltamenti, diventa la risposta in ginocchio di fronte al contribuente: la colpa è tua, paga, paga, paga. Io la vedo un po' così. Faccio presente a tutti quali sono le proiezioni di incidenza delle entrate sul PIL quest'anno e negli anni a venire. Noi abbiamo avuto un'incidenza del percentuale delle entrate totali sul PIL nel 2010 del 46,6%, che diventa il 48% nel 2012 e che sfiora il 49% nel 2014. La pressione fiscale diversa dall'incidenza totale delle entrate totali sul PIL passa a superare il 44% l'anno prossimo, e quindi a battere tutti i record, compresi quelli di Visco e Padoa-Schioppa, per tanti anni dipinti dal centrodestra come vampiri, e per arrivare al 45% nel 2014. Questo è l'amara dato di fatto che abbiamo di fronte. Vediamo cosa pensano i nostri ospiti, sia di queste condizioni di credibilità degli autoribaldamenti successivi giorno per giorno del governo, sia della credibilità di questa strategia fiscale complessiva che sembra profilarsi almeno a meno di sorprese nuove, per così dire, che magari ci attendono in Consiglio dei Ministri. Allora, in questa prima parte della trasmissione sono con noi Nicola Porro, che è il vice direttore del giornale, che ringrazio e saluto. Buongiorno Nicola. Buongiorno Oscar. Enrico Morando, senatore del PD, componente della commissione bilancio. Giornalisticamente, Porro, che ti aspetti dal Consiglio dei Ministri e dall'emendamento di oggi? Che pensi di questa neostrategia fiscale al posto degli autoribaltamenti visti in questi giorni? Difficile dire cosa ci si aspetta dal Consiglio dei Ministri, perché stanno cambiando idea ogni istante. Non sono uno di quelli che pensa che questa sia una cosa drammatica, ma è una cosa un po' ridicola. Drammatica no, perché obiettivamente quando si mettono insieme manovre pluriennali per 130 miliardi che devono evidentemente far male a qualcuno, qualche indecisione, qualche figuraccia, come hanno fatto più volte in questo periodo i membri dell'esecutivo, io la do per scontata. Fatta questa premessa, diciamo, un pochino assolutoria, però resta il ragionamento che facevi tu prima, cioè un governo che c'ha davanti a sé un anno e mezzo di legislatura, 2 anni di legislatura, e che aveva ci aveva spiegato quello che modestamente noi pensavamo, e cioè che la vera via per lo sviluppo di un paese è quella di ridurre le imposte, per il semplice motivo che è meglio un euro speso da un privato che un euro speso dallo Stato. È un'idea banale, semplice se vuoi, ma alla quale ancora siamo alcuni di noi affezionati. Bene, tutto ciò non esiste all'interno di questa manovra. Quello che succederà, direi quasi mettendoci la mano sul fuoco e quindi rischiandola di perdere, è che fanno cassa con la cosa più semplice e immediata, che si chiama IVA, perché è una specie di bacino pronto per essere utilizzato, e soprattutto è quell'imposta che fa finta di non esistere, perché colpisce tutti in maniera molto ridotta, e forse anche più corretta perché sui consumi e non sul reddito, e quindi in questa fase potrebbe anche essere più accettabile. Però resta il dato finale, cioè un dato finale che porta lo Stato italiano ad avere un atteggiamento nei confronti dei contribuenti vessatorio e assolutamente da un punto di vista quantitativo elevato. Siccome i giornalisti sono molto bravi a dire quello che il governo fa male o quello che le opposizioni fanno male, ma sono anche un po' delle pippe nel dire quello che si dovrebbe fare, perché non vogliono assumersi delle responsabilità, io una responsabilità me lo assumo, e cioè non è possibile, e questo mi sembra che l'hai anche detto tu nella premessa, che su 800 miliardi di spesa pubblica, togliendo i 70 di interessi, quindi su 730 miliardi, noi di assistenza e previdenza spendiamo 300, di questi 300 240 sono di pensioni, quindi è la vera grande spesa corrente di questo Stato. Un governo che non abbia il coraggio di intervenire sulla spesa pensionistica, cosa che sarebbe dolorosa, tant'è che io sul mio blog La Zuppa di Porro scrivo sempre di queste cose, ricevo insulti di tutti i tipi, perché si dice non è vero, non c'è nessuna violazione del patto generazionale, i pensionati si sono meritati quello che hanno, probabilmente per molti è vero, però insomma non riesco a capire per quale motivo ad esempio il metodo contributivo, il metodo retributivo si applica soltanto per l'avventura della storia di essere nati prima o dopo il 95 dal punto di vista lavorativo. Insomma, io non dico tanto, però dico semplicemente che qui non esiste sulla faccia della terra che noi continuiamo a pensare che la soluzione dello Stato è quello di rincorrere le spese pubbliche che continuano con l'aumento delle entrate. Prima o poi arriveremo alla fine della curva di Laffer, ma ci siamo già, per cui pretenderemo il 100% del nostro reddito, lo dico in maniera paradossale, dai cittadini. Ecco, quello che io posso dire è quello che hai detto tu, cioè un governo liberale si sta riducendo a politiche che avrebbero potuto benissimo fare governi democristiani degli anni Ottanta. Sono, non so se sono stato chiaro. No, no, no, no, no, troppo duro, guarda, da parte mia no, poi perché ascolto, ovviamente le opinioni sono libere, io condivido molto questa ipotesi. Io credo che questa fosse l'ultima possibilità per questo governo, oltretutto a luglio e anche all'inizio di agosto con un Quirinale, a differenza di quello che pensano molti elettori e dirigenti del centrodestra, che aiutava nel creare la convergenza, cioè quando uno ha la chance di avere 100 ore a disposizione per un decreto Correggi Italia, quella l'occasione in cui far vedere quello che hai davvero in testa, perché sei certo che ti passerai la maggioranza, perché passi devi essere serio e credibile in maniera tale da portare a segno punti sia sull'equilibrio del conto economico che di quello patrimoniale, e non hai un'altra chance. Questa è la mia impressione come giornalisti, come osservatori. Sappiamo che ogni 15-20 anni è ricorrente nella storia italiana una crisi di questo tipo, stiamo parlando di qualcosa del tutto paragonabile a quella del 92, che poi ci portò alle mani nelle tasche degli italiani con Amato, e ci portò anche, cosa che è meno frequente sentirsi dire, al più alto innalzamento del coefficiente di Gini, che è l'indice statistico che misura la più ampia distribuzione dei redditi all'interno della società italiana, quindi l'accentuarsi delle differenze tra la parte bassa della piramide e la parte alta, che avvenne esattamente in quegli anni, gli anni del tanto rimpianto maxi prelievo patrimoniale di Amato. Si passò da un coefficiente di Gini di 0,29 a 0,34, da allora siamo 0,34 a 0,35, dal 93-94, ma quella enorme accentuazione delle differenze economiche nella distribuzione del reddito italiano, che invece viene sempre ripetuta come una caratteristica di questi anni, della globalizzazione, della destra e così via, è avvenuta per effetto di quel maxi assestamento fatto dai governi tecnici. Comunque, vedremo se sarà questo singolare mix di accertamento per adesione da parte del contribuente, quindi un ramo d'ulivo in mano per avere incassi maggiori, e dall'altra la minaccia delle liste pubblicate sui giornali di tutti i contribuenti, le manette agli evasori, i comuni scatenati per avere il 100% addirittura del maggior introito fiscale sui cittadini. Io non riesco a tenere molto insieme queste due facce come strategia fiscale. Credo anch'io che a quel punto l'aumento di 1 o 2 punti di IVA, non in decreto ma con atto autonomo, sia la risposta al fatto che bisogna garantire all'Europa i saldi. Che ne pensa Enrico Morando? Ma io penso che, a differenza di quello che ho sentito da parte di Porro, siamo in una situazione drammatica, perché la mia impressione è che il governo, la maggioranza, i singoli esponenti anche del governo e della maggioranza abbiano completamente dimenticato perché stiamo facendo la manovra. Ma c'è o non c'è il rischio del fallimento del debito pubblico italiano? Noi abbiamo fatto un decreto il 13 d'agosto, correggendone uno di luglio, perché abbiamo un serio rischio di fallimento del debito pubblico italiano, che è troppo grande per non determinare, se si avesse questo fallimento, il crollo dell'intero edificio dell'euro. O siamo in questa situazione e allora bisogna comportarci di conseguenza, o tutto ciò non ha fondamento e allora questa è una delle 300 manovrine estive che abbiamo fatto nel corso di tutti questi decenni. La mia risposta è la prima. Siamo in una situazione molto difficile, certamente il Paese ha le risorse umane, economiche, sociali, civili per uscirne, ma è necessario avere determinazione nelle scelte, assunzione di responsabilità da parte di tutti. Questo comportamento della maggioranza è pericolosissimo. Se nel corso dei prossimi giorni, anche sollecitata dalle polemiche che le vengono rivolte contro in Germania, la Banca Centrale Europea smette di acquistare titoli italiani sui mercati secondari. La interrompo solo per dire che il Presidente della Repubblica tedesca ha sostenuto 2 volte nell'ultima settimana che quell'acquisto da parte della BCE è illegale. Avrei precisato proprio ieri sera, qua, di fronte all'ennesimo annuncio di rinvio, io ho fatto riferimento a questo intervento del Presidente della Repubblica tedesco per dire: guardate, smettetela di giocare, perché state giocando sul destino dell'Italia e addirittura dell'euro. Detto questo, allora, se si recupera questo senso, allora io credo che si possa andare ad una discussione del merito, ma sempre con l'aria di chi sta decidendo, deve decidere ad ore, non a mesi, a giorni, a settimane, con andirivieni, le cose che avete già descritto e che non voglio riprendere. Da questo punto di vista, il primo problema da cui partire è che non è possibile, già la manovra così com'era uscita dal Consiglio dei Ministri è gravemente squilibrata dal lato delle maggiori entrate rispetto all'intervento a favore di minori uscite, di minore spesa. Dobbiamo riequilibrarla. E in mezzo ad altre proposte che magari sono meno coerenti con questa, tuttavia c'è una proposta del Partito Democratico sul ripristino del metodo della spending review, sull'assunzione del principio della comparazione di risultati a livello nazionale e a livello europeo per quello che riguarda ogni singolo segmento di pubblica amministrazione, l'adozione del modo di fare il bilancio cosiddetto a base zero, in cui niente si spende perché lo si è speso anche l'anno precedente, nei decenni precedenti, ma si rigiustifica tutto dal primo euro, l'adozione di un piano, l'abbiamo chiamato industriale, della pubblica amministrazione, che è una vera e propria rivoluzione della pubblica amministrazione in maniera da spendere meno e spendere meglio, l'allungamento del periodo, dell'orizzonte della programmazione in maniera tale da rendere flessibile ciò che l'anno successivo è troppo rigido. Insomma, ritorniamo a dare priorità alla strategia di riduzione della spesa invece che di aumento delle entrate. Il governo sta correggendo una manovra già squilibrata in questo senso, nel senso di accentuare il contributo delle maggiori entrate, ma dove la vogliono portare la pressione fiscale? Siamo al 45% che si determinerà sulla base della manovra così come è uscita dal Consiglio dei Ministri nel 2014. Vogliono arrivare al 50% di pressione fiscale, cioè diamo agli italiani le tasse degli svedesi ma con lo Stato sociale di Napoli. A me sembra veramente di stare ad interloquire con persone che non si rendono più conto della funzione che dovrebbero svolgere. Molto bene, tra le cose di apparentemente di minore importanza segnalateci dagli ascoltatori che in questi giorni sono veramente fervidi di osservazioni e proposte e controproposte. Questo capita sulla Radio 24, capita in realtà con tutte le testate di informazione, capita a ciascuno che faccia questo mestiere. Segnalo due rapidissimamente. Primo, un ascoltatore che si occupa da sempre di vicende libiche e di imprese in Libia e di italiani, di diritti conculcati e non rispettati di italiani imprese in Libia, visto che i concomitanti poi ci sono anche le vicende a poche centinaia di chilometri nell'altra sponda del Mediterraneo, nella sponda sud, che ci dice che in emendamento del decreto per questione d'urgenza c'è anche copertura dei danni subiti dai recenti avvenimenti in Libia, e però la singolarità è che l'emendamento in questione esclude tutte le aziende che hanno crediti antecedenti al 2011, quindi ci sono circa 120-130 aziende italiane che aspettano da 10-15 anni con crediti certificati e riconosciuti dai libici ma non vengono pagati dal regime di Gheddafi, e per quelli praticamente pari e patta, lo Stato ha deciso che non fa niente, lo fa solo per chi ha preso le bombe della NATO dall'inizio dell'anno. Cosa un po' singolare, non vi pare? Sì, a me pare molto singolare. Seconda cosa invece che ci fa sempre capire meglio come funziona questo singolare Stato che da una parte esoso e affamato chiede più soldi, e ha ragione Enrico Morando, secondo me la pressione fiscale record del centrodestra ne testimonia la perdita di diritti morali a fronte del 17 anni di promesse opposte. Questo è un mio giudizio personale che sento di ripetere, però, perché io, siccome per tanti anni ho ribadito quel principio e adesso perdo la faccia personalmente e perdo il diritto a poter ripetere che quella è la strada per l'Italia grazie alla parola mancata e ai fatti che vanno in direzione opposta di questo governo di incompetenti e incapaci, ecco che quindi mi permetto anche questi giudizi. Faccio un'osservazione su come funziona lo sposometro che dobbiamo sempre a questo governo di centrodestra e che apparentemente è una misura molto condivisa dagli italiani, che ovviamente pensano che si deve andare a più intense strategie di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Sapete che lo sposometro è stato introdotto, abbiamo fatto più volte puntate in cui mi sono sforzato di mettere in luce le contraddizioni di questo strumento, che apparentemente però gode molto del vostro consenso, che è scattato in funzione quest'anno, e quindi le spese superiori ai 3.000 euro entrano in un paniere sulla base del quale poi c'è l'obbligo di segnalazione all'amministrazione fiscale da parte degli intermediari o dei commercianti, dei prestatori di opere e servizi per tutto ciò che io spendo superiore a quella cifra. Che cosa è successo? È successo che nelle misure attuative dello spesometro le procedure che devono seguire gli intermediari, i commercianti, gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione sono così cervelloticamente complessa nel distinguere tra la prestazione di l'acquisto di un bene o la prestazione di un servizio, che l'Agenzia delle Entrate, trovandosi a dover spiegare i particolari, essendo così vessatorio il meccanismo delle comunicazioni obbligate, ha deciso che tutte le amministrazioni pubbliche non sono tenute al rispetto della norma. Avete capito bene? Cioè lo spesometro, che diventa uno dei cardini per fare la lotta all'evasione fiscale, ha delle modalità di adempimento così cervellotiche e onerose, naturalmente, per le imprese commerciali, finanziarie, eccetera, eccetera, che lo Stato decide per sé, comune, provincia e regione, che lui non le rispetta perché sono troppo complicate. Ma si può vivere in un paese così? E questa è la credibilità dello Stato in base al quale bisogna credere che mi devono alzare l'aliquota marginale sui redditi delle persone fisiche, le imposte indirette, e contemporaneamente bisogna pure pensare alle patrimoniali? Io penso di no. Comunque la pensiate politicamente, vi potrà sembrare la mia una battaglia minoritaria, perché rischiamo, se non mettiamo mano tutti al portafoglio, di finire male. Ma io penso invece che decenni ci dovrebbero aver insegnato che il portafoglio in cui dobbiamo incidere è quello pubblico, sia nella spesa corrente che nella parte patrimoniale. Eccoci tornati qua in studio, prima di presentarvi gli ospiti che saranno con noi in questa seconda parte fino alla fine delle 10, qualche rapidissima telefonata delle tante per vedere come la pensate voi, cosa vi aspettate oggi dopo l'autoribaltamento della parte fiscale seguita alla parte previdenziale, scusatemi, seguita all'autoribaltamento del sovraliquota IRPEF persone fisiche, di questa nuova strategia che è un misto di ramo d'ulivo e invece pistola puntata per quello che riguarda la lotta all'evasione, con una certezza, ci pare di capire che per garantire i saldi si fa un punto, due punti di IVA in più, ma non nel decreto, però a parte, a seconda di quello che ci dirà l'Europa. Se iniziamo con Giorgio, Giorgio ci chiama da Pisa, sentiamo come la pensa. Pronto, mi sentite? Prego Giorgio, dica. Sì, buongiorno a tutti voi. Volevo dire solamente una cosa semplice e semplice. Dall'America noi si importa tutte le bischerate possibili, no? E si fanno subito nostre. Ma il sistema fiscale americano, che fra l'altro comporta anche il carcere certo per gli evasori, qui in Italia non si può fare, se no si va tutti in galera, mi sa. No Giorgio, guardi, il problema però è che io sono d'accordo, però bisogna importare anche le aliquote e il livello di spesa sul totale del PIL americano. Quando Warren Buffett, in questi giorni invitato da, indicato da molti miei colleghi come l'esempio di ricco da seguire, dice tassatemi di più, i miei colleghi dimenticano di dire che Warren Buffett dice io voglio pagare di più perché la mia aliquota marginale è il 19%. Ecco, quella di Giannino è il 43% reddito persona fisica, sommando invece partita IVA le due società io pago fino al 63% del lordo. E lei capisce che se pagassi il 19 la penserei come lui, ma quando pago il 60 ho l'obbligo di dire che è lo Stato che deve fare chiarezza, o no? Questa è la differenza prima di dire mandiamo tutti in galera, è tutto qua. Io non difendo gli evasori, dico che però noi abbiamo una spesa che è il 53% del PIL e questo in realtà la politica non riesce a sbatterla giù e io voglio che la sbatta giù, altrimenti noi continuiamo a dividerci da fessi e da poveri e a non vedere che i ladri veri, ma non lo dico perché rubano i soldi per loro, dico in termini di futuro per questo paese è il livello di intermediazione pubblica. Besir, che ci chiama dalla provincia di Perugia. Prego Besir. Buongiorno, grazie che mi avete chiamato. No, prego. Io stavo dicendo che la mia paura è che il governo non riesce a fare una manovra che o perché non è capace o perché ne sta nascondendo i conti come il governo greco e alla fine la paura mia che se troviamo con i conti sbagliati che il governo sta nascondendo i conti e a noi cittadini non ci dice la verità. Ma lei è cittadino italiano? Sì, ma proveniente da che paese? No, io sono della Macedonia, sono cittadino. Ah, non è cittadino, lavora e risiede in Italia. Sì, ma guarda, io da osservatore posso dirle quello, non credo, per come siamo monitorati in Europa da molti decenni, che l'Italia possa trovarsi in una condizione di aver mentito sull'entità del suo deficit pubblico nell'ordine tra il 13 e il 15% come invece ha fatto la Grecia. L'Italia, come tutti altri grandi paesi fondatori, compresa Francia e Germania, è ricorsa in passato a window dressing, come si chiamano in termini tecnici, abbellimenti tecnici attraverso la parte patrimoniale soprattutto e abbellimenti di contabilità per diversi punti di PIL. Diverso è dire che c'è un deficit del 15% che non riveliamo, questa è la mia opinione. Alessandro invece che chiama da Vicenza, rapida, come la pensa? Allora, da ex elettore di destra, che sì, quindi credeva in Berlusconi che quando è entrato liberiamo il paese dallo Stato, meno Stato, no? Più sì, privati, quindi lasciamo perdere. Il commento è questo, c'è anche Porro che, di cui leggo spesso gli interventi, che è sempre una persona molto intelligente perché ne fa anche delle proposte. Ma allora, mi scusi, se io sono indebitato come singolo cittadino, la prima cosa che faccio qual è? Cerco di vendere quello che ho. Mi vendo la macchina, mi vendo una motorina, mi vendo la casa e una volta che sono riuscito a vendere queste cose probabilmente abbasso un po' di debiti che ho verso gli altri. Allora, nel grande, i comuni, le regioni e gli stati dovrebbero fare la stessa cosa. Allora, in questa manovra, approfittando dell'emergenza e quindi sei preso, come si suol dire, con le bombe, no? La mettiamo un po' perché non lo fanno, dice lei? Perché non lo fai? Perché? Perché se decidi di fare gli interventi che tutte le persone di buon senso come lei, Porro e tanti altri in questo paese dicono, cioè le pensioni le equipariamo agli altri paesi, mica vogliamo lavorare fino a 80 anni, ma le equipariamo a tutti i paesi normali di questo, di questa Europa. Vendiamo quello che possiamo vendere, gli immobili, vendiamo tutti i beni ovviamente che sono liquidabili in tempi rapidi, valori di pochi mesi. scendono in piazza chi? Scendono in piazza i comuni perché non hanno le risorse. La realtà è che questi comuni non sanno gestire quelle che hanno perché non sono imprenditori, sono politici. Questa è la realtà, perché anche i comuni hanno beni da vendere che non vogliono vendere perché sono potere. Questa è la realtà. Lo Stato non venderà mai le proprie proprietà perché? Perché ci sono chiaramente consigli di amministrazione, politici da piazzare, c'è gestione da poter in qualche modo nascondere. Le pensioni non le toccano perché sennò i sindacati entrano in piazza per 20 mesi. Allora, questo, qual è la credibilità di questo governo? La credibilità non c'è, perché un governo forte fa quello che ha fatto in Francia, Sarkozy, che tutti sanno. Ci sono stati 30 giorni di sciopero, perché questo è quello che è successo. Sarkozy, probabilmente appoggiato dai partiti, ha detto queste sono le soluzioni, però potete scioperare finché volete perché la realtà è che facciamo bancarotta. E l'hanno fatto, in Germania hanno seguito la Merkel perché evidentemente è credibile. In questo paese la sinistra, che poi anche spesso parla tanto, ma alla fin fine anche lei nei momenti critici ha sempre tirato indietro, perché mi scusi se mi dilungo. Ma no, la devo interrompere adesso... infatti. Io guardi, Francia ci hanno più del 6% di deficit quest'anno, attenzione, sono stati costretti a una manovrina di 12 miliardi in due anni, uno quest'anno e 11 l'anno prossimo, di cui ancora non è chiaro come funziona, quindi non lo so, ci andrei piano. Il problema è semplicemente che non hanno il nostro debito pubblico accumulato, ma ne hanno fatto un bel po' in questi anni anche loro. Quanto alle dismissioni che non arrivano e ai tagli delle spese che non arrivano, sì, è chiaro, ogni politico di fronte al fatto che l'aumento dei costi degli acquisti dei beni intermedi, quindi insomma le forniture, per capirci, la sanità è aumentato del 60% in 6 anni, e ti dice che se la sanità gli devi un euro salta il servizio al cittadino, e questo è ciò che si sente sempre dire dal politico pro tempore. Mi dicono anche che è facile fare l'osservazione dall'esterno, però il problema è che i numeri dicono questo. Allora, gli ospiti di questa seconda parte sono con noi Ernesto Felli, che insegna economia a Roma 3 ed è editorialista del Foglio. Buongiorno professor Felli. Buongiorno. E con noi anche Franco Bechis, vice direttore di Libero. Buongiorno e grazie Franco. Buongiorno Oscar. Che ti aspetti oggi dal combinato disposto del Consiglio dei Ministri e del termine per la presentazione degli emendamenti? Quali nuove sorprese pensi daranno forza e credibilità a un decreto che ne ha persa ogni giorno? Io non vedo altra soluzione che fare quello che avevano già chiesto, già valutato sulla previdenza all'INPS, perché se non si accelerano le due misure che già erano previste, cioè quella della parificazione uomo e donna previdenziale e quella del raggiungimento di quota 164 anni, cioè di età minima e 36 di contributi per la pensione di anzianità, cioè parificandola a quello che avviene in molti altri paesi. Molti non ce l'hanno nemmeno la pensione di anzianità, altri ce l'hanno in questo modo qui. Ecco, queste simulazioni erano già state fatte dalla Ragioneria Generale dello Stato nelle scorse settimane, e l'unica misura che è lì pronta e che poi non sarebbe così drammatica, perché sarebbe comunque graduale e darebbe circa 2,5 miliardi nell'arco di questa manovra. Quella dell'IVA, di cui si parla tanto, non tiene conto del fatto che con tutto il pasticcio fatto dalla manovra di luglio, poi emendata in parte anticipata dal decreto di agosto, nella copertura del decreto d'agosto, proprio nella tabella di copertura, ci sono 4 miliardi nel 2012 e 16 nel 2013 che vengono da quello, perché è stata inserita come collegato la cosiddetta riforma fiscale, a cui si può rinunciare o meno, che è coperta dall'aumento di un punto di IVA e dall'aumento delle accise. Questo sta in prospetto di copertura della manovra, quindi vedo difficile poi fare 2 punti di IVA. Si deve rinunciare a una cosa se si vuole usare quell'extrema ratio. L'altra misura di cui si sta parlando un po' confusamente, che però improvvisamente il governo ha scoperto grazie al Presidente della Corte dei Conti, che del vecchio condono 2002-2003 mancano ancora all'appello 4,2 miliardi di euro, perché ci sono molte imprese e persone fisiche che hanno pagato la prima rata, così hanno evitato gli accertamenti, si sono messi diciamo in regola col fisco e poi non hanno versato quelle successive. È un po' curioso che siano passati tutti questi anni senza che nessuno andasse andasse a bussare alla loro porta, perché l'Agenzia delle Entrate mi sembra che abbia usato metodi anche duri e spicci con i piccoli contribuenti. Lì ci sono i nomi, ci c'è il primo versamento, c'è la dichiarazione quindi di non essere in regola con il fisco, e non ha recuperato quasi niente. Erano 5 miliardi 6 anni fa che mancavano, sono 4,2 oggi, quindi evidentemente non sono andati a bussare molte porte, e quella è una delle cose più facili da fare. Il motivo per il quale il ministro dell'economia correttamente dice, Franco Bechis, l'implicita cosa che io tiro fuori nella spiegazione, è contrario al ritocco dell'IVA, è esattamente questo: aumentare di 1-2 punti l'IVA per far cassa adesso significa semplicemente dire addio, almeno per come ci è stata presentata ed è negli strumenti presentati da questo governo, addio alla riforma fiscale. E questo spiega perché il ministro Tremonti ha puntato i piedi su questo. Però è presente il Consiglio, per essere chiari, che in questi giorni sente direttamente i direttori dei giornali e fa scrivere che quella è la vera cartuccia pronta a essere sparata. Quindi io quella mi permetto di dire che mi sembra più che un'illazione, perché anche ieri qui ha chiamato lui, insomma, per essere chiari, per dire che questo altrimenti non è poco, è più di una voce, per così dire. Posso chiedere a Franco Bechis, che a un certo punto se n'era uscito di fronte alla prima versione, quella del sovraliquota IRPEF, dicendo mi autosospendo diciamo come cittadino, non come giornalista, dalla vicinanza e dal sostegno al centrodestra, la sua posizione attuale rispetto all'attuale formulazione della manovra com'è da questo punto di vista? Dunque, io vedo che la prima parte, quella più evidente, mettiamo nuove tasse, è saltata in maniera un po' confusa, perché poi non, a dire la verità, in questo momento è in vigore, perché il decreto legge è in vigore, quindi esatto. I contributi di solidarietà in questo momento è in vigore. Bisogna vedere, io resto sospeso, perché anche tutte le nuove norme che si vedono mi lasciano un po' perplesso. Io ricordo che le ipotesi fatte su caccia degli evasori, redditi pubblici sbattuti in piazza e così via, erano le cose fatte da Vincenzo Visco nel governo Prodi, contro cui era insorto tutto il centrodestra. Bravo. Allora sì, in un caso che nell'altro il centrodestra ha portato in piazza 2 milioni di persone contro cose che oggi fa, e rimango piuttosto perplesso. Anch'io devo dire la verità, e non vengo meno al mio dovere, con la stessa durezza con che criticavo allora, di criticarli a doppia durezza oggi loro, perché oggi loro, comportandosi così, levano credibilità a chi, liberale e liberista, continua a sostenere che la via invece è quella di diminuire drasticamente, perché c'è tanta carne che si può eliminare in 815 miliardi di spesa pubblica e c'è tanto patrimonio pubblico da mettere a reddito o cedibile, come dice la stessa ricognizione fatta dal Tesoro l'anno scorso, lo ricordo ogni giorno. Quindi chiaro che mi si leva credibilità se si pratica la stessa via degli altri, dopo aver giustamente, come ricorda Franco Bechis, tanto criticato. Eccoci tornati in studio, rapidissime opinioni aggiuntive da parte degli ascoltatori. Enzo, che ci chiama dalla provincia di Alessandria. Prego Enzo, come la pensa? Buongiorno a tutti. Ma io sono un consulente finanziario e mi sento un pochettino preoccupato da questa situazione, per dirla un po' con un eufemismo, nel senso che gli obblighi, gli impegni che abbiamo preso non li possiamo rispettare utilizzando l'evasione come se fosse un bancomat. Oggi manca qualcosa, beh, aumenteremo l'evasione, la lotta all'evasione. L'evasione è un obbligo di tutti i giorni da combattere, quindi non si può promettere di coprire dei buchi con l'aumento dell'evasione, la lotta all'evasione. Altri punti che mi sono segnato era, insomma, non sono proprio d'accordo con lei quando dice che più entrate corrispondono a più spese, perché quelli che fanno le spese sono quelli che eleggiamo noi, quindi dobbiamo essere un po' più oculati nella scelta di chi andiamo a eleggere, anche se ci sono delle leggi porcate, così definite, per l'elezione dei nostri parlamentari. Altri punti, diciamo che anche ricollegandomi alla trasmissione precedente alla quale lei ha partecipato, sul fatto di pubblicare degli elenchi nei quali sono ricompresi i redditi dei cittadini, direi che una risposta l'ha data il sindaco leghista, nel senso che se uno accede a dei servizi sociali ai quali sono richiesti un reddito basso, Quelli devono essere, partire da quelli, perché se non hanno neanche il pudore le persone che evadono e poi richiedono ancora un servizio sociale sottraendolo a chi effettivamente ne ha bisogno, beh, quello, la cosa è ancora più grave. Dal punto di vista degli evasori si parla sempre delle partite IVA, ma io mi permetto anche di dire, forse perché vivo in un comune di provincia piccolo, nel quale insomma, si possono anche vedere che evadono anche i dipendenti e i pensionati. Lo so, però il dottor Tinti prima mi ha deriso e ha fatto cifre purtroppo che non corrispondono, però vabbè, lasciamo perdere, altrimenti sembra che io poi sia assatanato contro i lavoratori dipendenti. Non è così. Giacomo dalla provincia di Lucca, prego, Giacomo. Sì, buongiorno. Rapido. Penso che ha detto il dottor Tinti, che abbia detto delle cifre di 140.000 che gli operai pagano tutto, quindi sono 146.000 il reddito, i milioni di euro, e poi lei mi corregga, però c'è qualcosa che non mi torna. Se gli operai, diciamo gli operai, io dico, scusi, non voglio offendere nessuno, premetto, le persone che sono sottoposte, diciamo così, pagano 140.000 milioni di euro, eccetera, al fisco, cioè questo prelievo viene fatto dalla gente che ha la partita IVA, quindi c'è un'incongruenza che non mi torna, cioè se viene prelevato questo, come le persone sottoposte pagano questa cifra, cioè aggiusti questa Giacomo, mia... Giacomo, abbia pazienza, io sono molto comprensivo, però vede che gli effetti delle cifre un po' bislacche del dottor Tinti sono che lei fa un discorso che io non riesco neanche a capire. Mi pare di capire che per sottoposti lei intende i lavoratori dipendenti, dopodiché non ho capito bene qual è il nocciolo della faccenda, non ho capito bene se lei sostiene che se si mettono in pericolo i lavoratori dipendenti, si mettono in pericolo anche le maggiori entrate, non ho capito bene. Comunque il problema è che le cifre che vi ha dato il dottor Tinti non corrispondono al vero, cioè non è vero che sul totale di 146 miliardi ciò che frutta l'IRPEF 141 miliardi vengono dal lavoro dipendente. Comunque vabbè. Gianni da Roma, prego Gianni. Buongiorno Scaggiamino, volevo parlare di pensioni, però volevo dire che sono d'accordissimo con lei sulla delazione stupida che si fanno per i redditi, in quanto uno Stato moderno ha l'informatica a disposizione. Detto questo, volevo parlare delle pensioni e mi sogno un giorno nella vita che voi giornalisti, non lei personalmente che già lo fa tantissimo, ma gli altri della carta stampata, ci facciano vedere un bel prospetto sulle pensioni di oggi in Italia. Siccome c'è assistenza e previdenza, io mi sogno che qualcuno mi evidenzi l'assistenza, quanto grava sull'INPS, io lo so, sono 2 punti di PIL. Oggi noi siamo fuori trend rispetto all'Europa, oltre perché la falsa percentuale, ovviamente quando non cresce il paese, il valore assoluto delle pensioni crescono, però poi la battuta che mi viene di fare, se il paese crescesse che fate, date più pensioni? Vabbè, escluso questo, se la previdenza che vale 2 punti di PIL, l'assistenza che vale 2 punti di PIL venisse tolta, sì, una volta rimasta la previdenza, sì, mi auguro che Porro me la scorpori con le 500.000 delle baby pensioni, eccetera, eccetera. No, aspetti, rimasta la previdenza, sì, poi va messo in ordine cosa ancora togliere o sì, intervenire. Sì, sì. No, ma Gianni, aspetti, io la interrompo perché ovviamente poi se procediamo su questo è anomalia nella reversibilità rispetto agli altri paesi e così via. Tutto vero, tutto corretto. Mi limito a dire che i 2 punti di PIL, su cui più o meno sono d'accordo, vale l'assistenza, da soli non giustificano però il fatto, siccome si dice sempre che i conti sono in ordine, no? Sono in equilibrio, io faccio presente che a oggi noi diamo quasi 80 miliardi di euro l'anno agli enti previdenziali pubblici per farli stare in equilibrio dalla fiscalità generale e questo trasferimento sale a oltre 100 miliardi nel giro dei prossimi 3 anni, quindi anche levando l'assistenza, che è il punto classico dei sindacati per dire che la previdenza è in equilibrio, la previdenza non è affatto in equilibrio e comunque i 15,3-4,5 punti di PIL a cui abbiamo stabilizzato più o meno a oggi la spesa previdenziale, sia pur con questi 2 punti dentro, e 2,2 punti maggiore rispetto alla media europea, e anche lì non è previdenza pura, mai. Quindi c'è qualche cosa che va cambiato. Noi proponiamo di fare l'accelerazione e convergenza, tetto di anzianità e tetto di vecchiaia nel giro di 3-5 anni, saldi fino a 60-70 miliardi, allineamento all'Europa e alle attese di vita. Sacconi e altri ci dicono che siamo pazzi perché hanno fatto già la migliore riforma possibile. Non so che cosa dire. Professor Felli, lei è uno di quelli che scrive manca la crescita, e mi sembra un punto di vista sostanziale. Anche questo nell'orizzonte non c'è per niente. Quali possibilità, al di là di quello che non farà il governo a questo punto, c'erano per intervenire con dal punto di vista macro e micro per crescita che non sia lo Stato che si mette a decidere lui che cosa fare, insomma, far fare all'economia? Beh, la prima cosa è la riforma del fisco. Pronto? Segue una pausa perché ovviamente non ce l'aspettiamo più da parte di questo governo, però ha ragione ovviamente. Ho capito, ma quella sarebbe la via maestra, la riforma del fisco, che se per esigenze di stabilizzazione finanziaria non può comportare nel brevissimo periodo una diciamo riduzione della pressione fiscale, può però essere fatta, come mi sembra può essere indicata nella manovra di luglio, facendo un riequilibrio della pressione in modo da spostare l'onere della tassazione dal lavoro ai consumi. E questo è un modo che può essere, diciamo, di sostegno alla crescita. Poi? Ma poi ci sono tutte quante le misure che conosciamo che servono per favorire la crescita, che riguardano il problema dell'Italia e il corporativismo, quindi bisogna fare tutte quelle cose che servono. Sono più misure, bisogna più misure micro, dice, la liberalizzazione. Beh, che agiscono sull'offerta, esatto. Quindi non sono micro nel senso, ma comunque diciamo agiscono sull'offerta e che riguardano l'apertura dei mercati, certo. Tutti i mercati. E invece cosa si aspetta dal punto? Cose che ci siamo sentiti di che abbiamo scritto, che abbiamo detto, tante volte. Cosa si aspetta a questo punto dopo questi autoribaltamenti? Saranno l'IVA e quindi significa rinunciare alla riforma fiscale, oppure no, questa cosa che diceva anche prima lei non l'ho capita. Quella sta nella cioè è chiaro che si tu alzi. No, perché quella veniva indicata abbassare l'IRPEF. Veniva indicato come centri di finanziamento quasi prioritario per la riforma fiscale. Follia, ma stiamo scherzando. Ma cioè, voglio dire, tutto il problema nasce da questa logica della lasciamo perdere tutto il resto che è stato detto, tutto nasce da questa logica delle manovre di emergenza, della manovra bis, terre, eccetera, eccetera. Perché io non ho capito, noi a luglio era stata fatta una manovra che comportava 45 miliardi come correzione, no? Con obiettivo il pareggio del bilancio 2014. Quello che come dire, ci chiede l'Europa, ci chiedono i mercati, no? Sempre questa cosa che non si capisce perché non facciamo le cose che sono state indicate, che si dovrebbero fare, ma comunque ce lo chiedeva l'Europa, allora si entra in questa logica dell'emergenza. Che, e quindi anticipata di un anno. Sì, allora, ma perché non si è anticipata di un anno? A parte che non ho capito se persino io non sono riuscito a capire se questa nuova manovra è aggiuntiva o semplicemente si tratta a quella di luglio o semplicemente si tratta di anticipare. Guardate che io penso che ci sia qualcosa in più, ma se l'obiettivo è quello di ridare fiducia, di tranquillizzare, di ridurre l'incertezza, cioè di ricostruire il capitale della credibilità, tutto quello che è stato fatto da luglio, lasciamo perdere prima, da luglio ad oggi è esattamente l'opposto. E io su questo devo dire che sono totalmente d'accordo, ed è il senso di tutte le trasmissioni di questo giorno. Anche domani faremo un punto su ciò che emerge oggi. Il passo indietro della credibilità è un passo verso il fondo che di nuovo ci investirà, perché la crisi dell'euro è ben lungi dall'essere finita. Comunque, un occhio e un orecchio con ospiti anche domani, le vostre voci a ciò che oggi viene dall'emendamento e dal Consiglio dei Ministri. Intanto, linea generale radio, a domani.